Enrico Caria, regista del documentario L'uomo che non cambiò la storia. Enrico, ben ritrovato. Ciao Federico, buongiorno, saluto a tutti. Allora, L'uomo che non cambiò la storia, che storia racconta, Enrico? Questa è una storia bizzarra, che sembra finta, è vera, e infatti a me piace chiamarlo un docu-thriller. Cioè, praticamente nel 1938, quando Hitler viene in Italia, dopo 3 giorni di parate militari, rassegne e navali, bla bla bla, si va a vedere i grandi musei italiani. Lui, artista fallito, in gioventù, era un appuntamento che sognava da sempre. E Mussolini dà incarico al ministero di trovare un degno cicerone interprete. E figura di grande spicco il giovane, ma già importante archeologo, Ranuccio Bianchi Bandinelli, che gli addetti ai lavori sicuramente conoscono come il fondatore della nuova archeologia italiana, insomma, il più grande storico dell'arte romana. Solo che questo uomo era uno snob antifascista, era un nobile senese che aveva un gran disprezzo per il fascismo. Mm-hmm. E quindi comincia a cercare di sottrarsi a tutti noi, lo incastrano e non riesce a tirarsi fuori da questo obbligo che gli impongono. E là si rende conto di una cosa: lui avrebbe l'occasione di ucciderli tutti e due, se avrebbe avuto la reale opportunità di farli secchi tutti e due. E da cui il suo diario di quei giorni, che fa parte del suo libro Diario di un borghese, questo capitolo che si chiama Viaggio di Hitler in Italia, che è scritto tra l'altro con un piglio satirico, un'intelligenza, e quindi al How he didn't it, diciamo, subentra poi il visti da vicino, sti due mostri visti nel privato davanti all'arte, gelosi l'uno dell'altro, insomma un punto di vista assolutamente nuovo, originale e molto, secondo me, appassionante. Infatti mi sono appassionato e ci ho fatto un film. Ecco, come sei venuto a conoscenza di questa storia e come hai deciso poi di tradurla in immagini? Guarda, da una parte io era un po' che volevo fare un film attingendo a quel meraviglioso tesoro che è l'archivio storico del Luce. Certo. Dall'altra parte io ho la fortuna di avere un grande amico in Andrea Bosco, che è il nipote di Ranuccio Bianchi Bandinelli. Quindi già da anni frequentavo questa stupenda villa settecentesca, che peraltro lui fatica a mantenere, perché insomma è una sfida enorme che si è caricato. E un giorno là trovo questo libro. In realtà Fofi aveva rieditato in una collana con EO soltanto questo capitoletto, Viaggio di Hitler in Italia. Sono rimasto di stucco a questa storia, per cui ho combinato le cose, la voglia di fare un lavoro attingendo all'archivio. Tra l'altro è iperdocumentata la discesa di Hitler in Italia. In quel periodo, nel 38, uscì anche subito un instant movie, che era il documentario della sua visita, quello ufficiale. Dove invece non era documentato, erano le visite private, e là c'è voluto pure qualche trucchetto per racconciare ciò che le immagini ufficiali non ci davano. Ecco, com'è stato appunto strutturare un lavoro basandoti chiaramente di base sull'archivio del Luce, ma non solo, anche costruire una storia che veniva dalla pagina scritta? Guarda, mi sono molto appassionato e divertito. Perché da una parte lui, tutte le sue elucubrazioni e tutti i suoi rincorrere quest'idea, che poi alla fine non ha messo in pratica, perché lui non faceva parte del Partito Comunista Clandestino, era un isolato, poi dopo diventa uno dei fondatori del Partito Comunista. Dopo fu anche arrestato come mandante dell'omicidio Gentile, ma non c'entrava nulla, infatti fu poi subito scagionato. Però per dire, lui ha concentrato questa ipotesi omicida nelle prime 20-30 pagine. Il lavoro, diciamo, creativo, ma assolutamente fedele, perché io non gli cambio una virgola di quello che scrive, è stato inserire in maniera da creare un racconto drammaturgicamente eccitante, emozionante. Cioè, per me è un docufilm di genere, e utilizzare questa traccia del possibile attentato e tirarla abbastanza diciamo farne un filo rosso, quindi ricostruendo, riposizionando l'ordine di come lui aveva scritto le vicende sul libro. Dall'altra parte invece poi la storia è assolutamente fedele dall'inizio alla fine. Qui c'è stato un lavoro alla fine creativo, è stata una bella sfida fare farne materia appassionante, e per me appunto mi piace questa cosa che ho inseguito l'idea del thriller, la musica, il montaggio, tutto musica di Pivio, Daniele Sepe, montaggio Fabrizio Campioni. Poi ci sono i disegni di Spartaco Ripa, che è un fumettista molto bravo d'avventura, mischiati con le immagini, perché c'ho tanti momenti appunto intimi, privati, segreti, per i quali, a parte delle fotografie o delle riprese che ho fatto ad hoc, non avevo copertura. E mi sembra che insomma non... ci stanno bene, insomma, perché sono ben amalgamati con l'archivio, li abbiamo realizzati e poi trattati come se anche quei disegni fossero d'epoca. E allora ci diamo appuntamento per l'uscita, e allora a risentirci presto. Grazie, buon lavoro. Un abbraccio, ciao Enrico. Ciao.